La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16, 34, primi 45 secondi. Un saluto qui dagli studi Radio 24 di Milano. L'indirizzo lo ricordo sempre, versione di Oscar, @radio24.it. E andiamo subito all'argomento del giorno per vedere anche di stimolarvi, se volete chiamarci all'800 24 00 24. E il punto è questo: ho ricevuto, e devo dire tutti a Radio 24 abbiamo ricevuto molte mail di segnalazione di uno studio fatto dalla UIL l'altro ieri, preso ieri sui giornali, oggi ci tornano altri quotidiani e strumenti di informazione. Questo studio sottolineava una specie di finestra di opportunità, chiamiamola così, o meglio una finestra di furbizia, per così dire, ed era fortemente critico per un effetto combinato degli incentivi offerti dal governo alle nuove assunzioni, che sono parte delle norme della legge di stabilità, e dall'altro il combinato disposto di questi incentivi rispetto alla possibilità di licenziamento con indennizzo che viene introdotta con il Jobs Act per i contratti di inserimento triennali e in relazione alla nuova disciplina dei licenziamenti economici individuali. Qual era il nocciolo di questo studio della UIL? La convenienza per gli imprenditori a incassare l'incentivo previsto dal governo, dopodiché tanto la possibilità di licenziare i lavoratori anche con un nuovo contratto di inserimento è di così più bassa rispetto all'incentivo che, in buona sostanza, mi prendo l'incentivo, mando a casa il lavoratore sul quale me lo sono fatto dare e ci guadagno. Ecco, questa è la sintesi. Ho ancora sotto gli occhi un articolo di oggi che rilancia questa tesi di Europa, Europa testata quindi del PD. E a questo punto ci siamo posti il problema, un po' di giornalisti che seguono la vicenda del lavoro, e naturalmente se lo è posto anche chi poi in Parlamento si trova a votare queste norme. Allora, come trasmissione di servizio, visto che molti di voi vi siete preoccupati dicendo: ma è veramente così, è davvero così, ma come, insomma, facciamo i regali agli imprenditori per far finta di assumere la gente e loro ci guadagnano con gli incentivi rispetto alla nuova possibilità di licenziarci? Oggi tentiamo di spiegarvi, quindi con i numeri e con le norme, se davvero sta così, davvero stanno così le cose, o è una forzatura della UIL per criticare il Jobs Act. Ecco, per farci spiegare come stanno le cose, numeri e conti alla mano, abbiamo invitato una persona che ha più caratteristiche sommate, perché innanzitutto è un fior di economista. Secondo, è stato manager e direttore generale lavorando anche per le imprese, e oggi però è deputato del PD, quindi fa parte della maggioranza, e quindi, diciamo, ha un'attenzione ai numeri delle norme che si votano e agli effetti che provocano, che gli deriva dalla somma di queste tre cose. E con noi, e lo ringrazio, Giampaolo Galli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, come funziona di fatto la somma degli incentivi, la possibilità di licenziare e quanto poi bisogna dare per indennizzo? I numeri stanno dalla parte di chi dice è una fregatura contro i lavoratori oppure no? Ma intanto diciamo che ci sono due tipologie di sgravi o di riduzioni fiscali. Uno è l'IRAP lavoro, che viene azzerata su tutti i lavoratori a tempo indeterminato, nuovi e vecchi. Non è questo l'oggetto di questa discussione. L'oggetto di questa discussione è l'altro forte incentivo, che è la decontribuzione totale per il datore di lavoro delle nuove assunzioni, cioè delle assunzioni che vengono fatte nel 2015, e quella decontribuzione dura 3 anni, quindi su quel lavoratore. Quindi se io ne assumo uno, per intenderci, il 1 gennaio del 2016, la decontribuzione non ce l'ho più, certo. No, solo se assumo nel corso del 2015. Questa discussione francamente non, diciamo, fatto tutti gli sforzi possibili per capire che cosa questo studio della Will avesse intenzione di dire, ma non riesco a, non mi pare che torni proprio il conto. Perché se io assumo, l'idea è, io assumo un lavoratore, indicizziamo a 100 il costo del lavoro, diciamo, del primo lavoratore, poi si dice dopo un anno io lo licenzio, pago 10, poniamo, di indennizzo monetario, perché c'è la riforma dell'articolo 18, e poi ne assumo un altro, ma l'altro che io assumo, intanto non, se dopo il 31-12 non avrò più lo sgravio, quindi anziché 100 diciamo sarà 120 che lo pago, ma quando anche lo facessi prima del 31-12 continuo a pagarlo 100, certo. Quindi non ho, cioè, è solo, io avrei un vantaggio solo se diciamo alla seconda persona che assumo ci avessi uno sgravio maggiore, e alla terza uno sgravio ancora maggiore, allora sì, diciamo, ma questo non avviene, quindi davvero credo che questa sia una polemica che è un po' montata, perché forse a qualcuno non piace il Jobs Act, e lo sappiamo che c'è tanta gente a cui non piace il Jobs Act, e però insomma ormai questo legge, e a questo punto si tratta di fare i decreti delegati. Io personalmente penso che sia importante farli rapidamente, farli bene, anche perché è una di queste riforme, quella del lavoro, che ci consentono di fare un po' meno austerity, perché è solo spingendo con le riforme strutturali sulla crescita che riusciamo a diciamo affrontare e in prospettiva risolvere il problema del debito pubblico. Credo che a questo abbia anche, e secondo me è stata una cosa positiva, ha esplicitamente aperto all'ipotesi di cui sta parlando lei lo stesso Eurogruppo lunedì, quando ha detto, rispetto al rilievo condiviso con la Commissione europea, ricordiamo che l'Eurogruppo sono i ministri dell'economia dell'euroarea, facendo propri i ministri la considerazione della Commissione europea Juncker, che gli sforzi aggiuntivi di miglioramento dei saldi pubblici attesi nel 2015 sono un po' bassi, solo lo 0,1%, mentre servirebbe lo 0,5%, cioè lo 0,4% in più, però esplicitamente l'Eurogruppo ha indicato che l'accelerazione delle riforme è l'altro modo rispetto che a ulteriori correzioni della manovra sui saldi, cioè meno spese o più tasse, per adempiere questo obiettivo. Quindi a questo punto l'accelerazione delle riforme, a cominciare dai decreti attuativi del Jobs Act, serve anche a quello, esplicitamente, mi pare, cioè non c'è contrasto con l'Europa su questo, mi pare, no? Anche a me non pare che ci sia contrasto, l'Europa ci tiene gli occhi addosso, perché abbiamo un elevatissimo debito pubblico, perché i problemi dei debiti sovrani possono riemergere in qualunque momento, e in qualche modo stanno riemergendo a causa di quello che succede in Grecia, cioè la prospettiva che si vada ad elezioni politiche anticipate con un partito di estrema sinistra, Syriza, che è in testa ai sondaggi di opinione, e questo naturalmente spaventa non poco, spaventa i mercati, ma poi forse spaventerà anche noi, perché il programma di Syriza non è tanto di uscire dall'euro, da quello che capisco, ma è di ristrutturare il debito pubblico. Esatto. E quindi ristrutturare anche i prestiti che noi abbiamo fatto direttamente o tramite la BCE, il Fondo Monetario, il Fondo Salva Stati, che noi abbiamo fatto alla Grecia, quindi è un costo che verrebbe imposto al risparmiatore e al contribuente italiano, e quindi il giorno in cui succedesse forse il contribuente italiano o l'elettore italiano non sarebbe tanto contento di questo risultato. E comunque quello che succede in Grecia sta mettendo un po' in tensione un po' tutta l'Europa, quindi è comprensibile che, almeno a mio avviso, diciamo che l'Europa tenga un occhio su paesi che hanno un elevato debito pubblico come è l'Italia. E io credo che sia un grande passo avanti che l'Europa capisca che la soluzione del problema Italia è in una ovviamente politica di attenzione alla questione del debito, ma soprattutto è la politica della crescita, perché è solo con la crescita che noi riusciamo a risolvere anche il problema del debito. E quindi diciamo un'attenzione minore all'austerità e un'attenzione maggiore alla questione della crescita. Credo che questo sia un passo avanti che l'Europa sta facendo, e credo che stia in noi di dimostrare che questo approccio, che ovviamente è un approccio più complicato, più complesso anche per fare il monitoraggio, per verificare i risultati. Col disavanzo è facile, si vede se stai sopra o sotto il 3%, si vede quanto è migliorato quest'anno, cioè, con le riforme strutturali è molto più complicato, perché dipende da come le attui, da come è poi l'interpretazione giurisprudenziale, di come insomma le nuove norme entrano di fatto nel vivo dell'economia. Però noi questa sfida la dobbiamo lanciare all'Europa, e dobbiamo imporre all'Europa di accettare questo come il vero terreno della sfida. Allora, adesso abbiamo un'informazione stradale, quindi tra 60 secondi torniamo, le anticipo già la domanda. Altri parlamentari dicono sì, in effetti la UIL ha esagerato, però resta il fatto che il governo in sede di decreto attuativo, quando dovrà indicare concretamente il meccanismo di indennizzo per licenziamenti economici individuali previsto in linea di principio, in termini generali, dal Jobs Act, deve però tenere conto che il numero di mensilità per anno lavorato deve superare l'incentivo previsto dal governo. Anche qui, secondo me, c'è un po' un difetto, perché chi avanza questa proposta, e naturalmente quindi vuole 6 mensilità l'anno, perché questi sono alcuni parlamentari che hanno fatto questa cifra, è come se accumulassero l'incentivo per tutti gli anni successivi. Invece, come vi ha spiegato l'onorevole Galli, l'incentivo c'è per gli assunti nel 2015, non per tutti i 3 anni accumulati. Però ero curioso di sapere come la pensa Galli esattamente anche su questo, cioè ci deve essere una correlazione diretta, anzi deve essere superiore l'indennizzo per anno lavorato nel caso di licenziamento economico individuale senza reintegro giudiziale rispetto all'incentivo per l'assunzione, perché altrimenti ancora una volta anche in questo caso le imprese sarebbero furbe, perché amerebbero licenziare per guadagnarci. Ma comunque, questa è la domanda, ci sentiamo tra 60 secondi con la risposta, intanto strada. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta. Sapevo che alcuni di voi avrebbero mandato gli sms che puntualmente leggo. Questa è un'intervista in ginocchio, servono gli interventi in contraddittorio. Guardate, la mia opinione è questa: il problema non è il contraddittorio, lo è sulle opinioni. Quando si tratta di capire se un'accusa a un provvedimento è fondata o meno, si tratta di vedere che cosa nei provvedimenti c'è scritto, cioè di fare i conti. Se invece ai vostri occhi, ma rispetto comunque alla vostra opinione, il problema è sempre solo di opinioni, cioè non conta il merito delle cose, la mia impressione è che è un difetto di fondo del dibattito pubblico italiano, perché si crede che i fatti e i numeri non contino e contano solo le opinioni, quindi bisogna fare sempre tesi contrapposte. Se uno ti dice, dal suo punto di vista, la UIL in questo caso è chi ha rilanciato questa obiezione, questa accusa al governo, il governo con i suoi provvedimenti fa il furbo e l'interesse degli imprenditori che amano così tanto licenziare che addirittura adesso li spingiamo a guadagnarci se assumono solo per licenziare, per lucrare sull'incentivo, il problema diventa: chi lancia questa accusa ha torto o ha ragione? Cioè significa, non sei legittimamente libero di farla questa accusa, perché resterà libero, ma nei provvedimenti c'è davvero questa concreta possibilità? Oppure non li ha capiti, oppure se li ha capiti ha le sue buone ragioni per criticarli a prescindere. Ecco, secondo me l'informazione serve anche a questo. Siccome molti di voi mi accusano di essere molto critico verso il governo, oggi secondo me c'è una critica al governo che non è fondata sui numeri di quello che c'è scritto nei provvedimenti, E allora apposta ho chiamato una persona che A, sa di numeri, B, è stato direttore generale di Confindustria, C, però sta anche nel PD e fa parte della maggioranza, perché il problema è capire se le accuse sono fondate. Ecco, quando io critico, vi spiego i numeri in base a cui posso sbagliare, ma secondo me ci sono delle buone ragioni critiche. Ma se i numeri non ci sono, allora l'informatore deve anche darvi la possibilità di capire come si distingue il grano dall'olio. Poi la UIL è libera di continuare a criticare. Allora, onorevole Galli, sul fatto invece di commisurare anche i mesi per anno lavorati di indennità nel licenziamento rispetto all'incentivo, su questo lei come la pensa? Diciamo, la mia risposta è implicita nella risposta precedente, dato che non vedo nessuna relazione fra l'entità dell'indennizzo e l'entità dello sgravio contributivo. Francamente non riesco a capire come si faccia a trarre qualsivoglia conseguenza riguardo alla dimensione dell'indennizzo nel decreto di riforma dell'articolo 18 in attuazione del Jobs Act. Quindi mi sembra proprio due questioni completamente scollegate. Pensare che ci siano 6 mensilità ogni anno, francamente, mi fa rabbrividire, mi sembrerebbe come non aver fatto nessuna riforma. No, anche a me. Quindi vedremo in concreto cosa il governo deciderà. Vedremo cosa deciderà. Però insomma qui bisogna decidere delle cose che facciano. Ecco, io ho un atteggiamento diverso da quello che ha lei. Io credo che Renzi complessivamente stia facendo le cose giuste, poi in qualche caso si può anche ci possono essere degli errori, io non li nascondo quando ci sono, ma nel complesso Renzi ha detto chiaramente dobbiamo incentivare l'assunzione, quindi la nuova occupazione, dobbiamo cercare di attrarre investimenti italiani, attrarre investimenti esteri. L'articolo 18 è uno dei tanti ostacoli, certamente non l'unico. Quello che è il premier, certo. Sentiamo un po' di ascoltatori così gli vediamo che cosa le chiedono. Cominciamo con Mauro da Biella. Mauro, prego. Buongiorno al suo ospite. Io intervengo proprio su questo fatto, ma per fare una domanda per capire se ho capito, magari c'è un vizio di comprensione da parte mia. La legge così formulata dovrebbe essere che nel 2015, se io assumo un dipendente per 3 anni, ho degli sgravi contributivi. Se alla fine dei 3 anni io questo dipendente lo licenzio, vado a pagare meno degli sgravi che io ho avuto. Io penso che ho capito questo, se è così forse c'è una ragione quelli della UIL, se non è così però, o se non si può calcolare. Ah, no, ma ha fatto bene a richiederlo, così facciamo rispondere all'onorevole Galli. Sentiamo ancora Giorgio da Bari, prego Giorgio. Salve. Per me, Sandro, che secondo me, per quanto concerne la discussione precedente, ha ragione sia il suo ospite che lei. Io invece avevo una critica da porre al governo. Vuole incentivare le assunzioni e quindi mette in piedi questo decreto con lo sgravio contributivo, però poi elimina lo strumento migliore che c'era fino a questo momento, che era la legge 407, che dava le medesime o quasi agevolazioni, che però era per una platea nettamente più ampia. Abbiamo ridotto il numero degli utenti che possono utilizzare questo strumento dello sgravio contributivo, saranno meno di 300.000 con l'incentivo di Renzi, con la 407 erano all'incirca tra i 7 e gli 800.000 l'anno. Qua parliamo di circa meno di 300.000 nell'anno 2015. Benissimo. Nell'anno 2016. Benissimo. Allora, intanto queste due questioni a Giampaolo Galli, prego. Dunque, il fatto che dopo 3 anni gli sgravi possano essere maggiori dell'indennizzo per me è tutto indifferente. Immaginiamo un sistema in cui non ci sono contributi sociali. Allora, quel sistema lì non va bene, è un sistema, è il migliore possibile, diciamo, per incentivare le imprese ad assumere, quindi francamente non riesco a capire la domanda. Lo sgravio non è un regalo che ti fa il governo, è un minor costo che tu paghi, è una minor tassa. Secondo me una minor tassa è sempre un fatto positivo, naturalmente, posto che la si finanzi e che non vada in debito pubblico. Io poi aggiungo a quello che dice Giampaolo Galli come risposta a questa domanda al nostro ascoltatore, che forse c'è un equivoco rispetto alla natura dei licenziamenti economici individuali, cioè quelli che con il Jobs Act superano il fatto che rispetto alla riforma Fornero era previsto sia l'indennizzo che il reintegro giudiziale. Adesso il reintegro giudiziale resta per discriminatori disciplinari, non per quelli di licenziamento economico individuale. In ogni caso, vedremo i decreti attuativi, ma è così, come ovvio per definizione, in ogni caso il licenziamento economico individuale, cioè quello a cui fa riferimento l'ascoltatore, quindi dice alla fine del terzo anno invece di trasformare il contratto in tempo determinato c'è la facoltà di licenziare, comunque il licenziamento economico individuale va giustificato da parte delle imprese per ragioni economiche. Cioè non è che abbiamo dato alle imprese la possibilità di buttare fuori tutti quelli che stanno sui coglioni, tanto per essere chiari nel termine un po' improprio a quest'ora e sempre a un microfono radiofonico. Questo vorrei che vi fosse chiaro a voi che siete in ascolto, perché non è così, capito? Cioè l'impresa comunque deve giustificarlo. Se non lo giustificasse, si esporrebbe esattamente a un licenziamento di tipo discriminatorio, che verrà infatti regolato, e vedremo quanto prescrittive saranno le fattispecie, cosa che io temo molto. In quel caso il lavoratore, consigliato da un professionista, dal sindacato, va al giudice, per essere chiari. Questa cosa qui non è secondaria, è proprio centrale in quello che stiamo dicendo. Quindi questa specie di storia per cui le imprese pigliano la gente, ci fanno i soldi, li buttano via, a prescindere da quello che pensate delle imprese, comunque non si può fare, perché il licenziamento economico dovrà avere delle ragioni di licenziamento economico sul rendimento, su quello che lui fa, non fa, non ha fatto. Ma di queste cose qua, continuate con Radio 24, grazie a Giampaolo Galli, appuntamento a domani.